Non ti dice niente questo sound, drago? Cosa è? Cosa ridi? Da ridere. Perché lo sanno tutti, ma forse qualcuno ancora no, che oggi è venerdì. Questo programma vi è presentato da Venerdia. No, da Wunderwaffer, capo. Ma prima viene Venerdia sì, e poi viene Wunderwaffer. In ordine alfabetico, W, W, certo. Vabbè, dai. Wunderwaffer. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. Drago, ti ricordi quando era il 10 febbraio 2012? Cosa vuol dire? Una settimana fa? Cosa devo ricordare? No, devo ricordarmi. Ti ricordi che io ero arrivato a una conclusione riguardo al 10 febbraio, ti ricordi? Ma no, capo, non so di che cosa stai parlando. Allora, il 10 febbraio 2012, secondo il calendario gregoriano, che è quello usato nella maggior parte delle nazioni che compongono il pianeta sul quale viviamo, cioè la Terra, Era venerdì. Ho capito, era venerdì. Cosa, Drago? Come hai capito? Lasciati prendere, vedi? Cioè, è venerdì. Il 10 febbraio. Oggi sono passati esattamente 7 giorni dal 10 febbraio. Quindi è il 17 febbraio. Bravo. Quindi andiamo a vedere, ma secondo i miei calcoli, Drago, anche il 17 febbraio. Secondo anche il calendario gregoriano. Quindi. Sì, Drago, Drago. Oggi è venerdì. È venerdì. Ecco. Ci stavo arrivando, è venerdì. Ho cominciato la sorpresa, no? È certo. Vabbè, comunque non devi fare ironia, sennò appunto, non fare ironia sul venerdì. Vuoi bot? Io no. Ti aspetto fuori. Che è venerdì. E poi ci prendiamo gestione, bot e andiamo. Qui dice gestione attività al telefonino. Non capisco. Perché? Cosa ho schiacciato che non va bene? Fai una cosa. Ma no. Ma scusa, ma era venerdì. È finito il venerdì. Ma no. Ma abbia appena cominciato. Abbia. Pensiamo alle cose serie adesso, a parte il venerdì. Alle cose serie. Bravo. Ci pensiamo noi. Io preferirei. No, Tornare al venerdì. Però vabbè, allora, andiamo avanti. Cose serie. Allora, Umberto Veronesi, secondo te è abbastanza serio? Beh, a parte le cose che pensa sul nucleare, parte quelle diciamo sì, dai. Lì puoi non essere d'accordo, ma non è che se dice sì al nucleare dopo Fukushima non è serio, è solo un po' controcorrente. Beh, un po', dai. Allora, veniamo al vecchio Veronesi, perché il medio Veronesi è Sandro lo scrittore, mentre il giovane Veronesi è il regista, fratello di Sandro, che si chiama Giovanni. Allora, Giovanni. Il vecchio Veronesi ha scritto a Super Mario Monti una lettera che dice così. Adesso, ukulele alla Alberto Lupo, grazie se ce l'ha, cioè, sì. Suonava l'ukulele Alberto. Sì, sì. Caro Presidente, ho letto la scheda tecnica del caccia di attacco F-35 della Lockheed Martin, di cui l'Italia dovrebbe comprare 131 esemplari, con una spesa di almeno 15 miliardi di euro in 11 anni. È un caccia di quinta generazione, un vero capolavoro di tecnologia aerospaziale. Un fantastico giocattolo di guerra. Beh, ha ragione, dai, il VV ha ragione. Chi? Il vecchio Veronesi, come il GGG. Ah, il VV, il GGG era. Il GGG era di Roald Dahl. E invece J.J. Jameson era quello di Spider-Man. Comunque VV ha ragione, dai, la categoria di adulti più infantile è quella dei militari. Sì. Mi sembra un'idea. Pensa solo a come si vestono e a come si esprimono. Il radar segnala una presenza invisibile a ore 12. Ma sono le 5 meno un quarto, tenente Drago. Dicevo che a ore 12 potrebbero trovarsi i droni opalescenti di Krong. Maledizione, tenente Drago, presto, passiamo al piano C. Il piano C, tenente Drago. Ecco, io... Tenente Drago, il piano C è quello che viene dopo il piano B. Ma io non so nemmeno quale fosse il piano B, comandante K, figuriamoci il piano C. Tenente Drago, presto, azioni l'identificatore termoreattivo. Agli ordini, comandante. Non funziona, siamo in trappola. Non ha niente da temere, tenente Drago. Possiedo l'arma che ci salverà. Che cosa hai in mente, comandante? Azionerò personalmente la grande boda. Oh mio Dio, ma è gigantesco! E non è nemmeno solo attenti! Guardate capo, lei ha sempre la battuta pronta! Tenete Drago! Sulla tenete! E così io e te combattendo fianco a fianco come bravi americani. Per non parlare del drago e di Pop, salveremo il nostro paese. Invece del giocattolo da guerra costosissimo, dice il vecchio Veronesi, nel seguito della lettera, potremmo comprarci degli asili interi. Gli asili interi pieni di giocattoli meno costosi di quegli aerei, capito? Sì, potremmo. Che i miliardi di euro per comprare e mantenere 131 F-35 sarebbero più che sufficienti ad aprire e tenere funzionanti, dice Veronesi, 85 asili nido per 11 anni. Asilo nido. È sempre rischioso fra sti confronti, però, eh? Sì, in effetti siamo in un territorio vicino al paradosso, no? I paradossi servono solo per stupirsi. Però devo dire che stavolta sono d'accordo. Ti convince stavolta il discorso di Veronese? Sì, mi convince soprattutto perché alla fine della questione, se dovessimo fare come Formigli, Formigli, no? Sì. Quello di... Eccolo lì. E sintetizzare tutto in uno slogan. Lo slogan sarebbe meno caccia e più asili. Sì. Che potrebbe essere anche interpretato in chiave radio 24esca. Sì. Come un invito a ridurre la striscia di Matteo Caccia e a fare chiedo asilo di 45 minuti. Vabbè, no? La messa così non è male. E quindi ha ragione Umberto Veronesi. Dai, allora dai. Dai. Meno caccia, più asili. Meno caccia, Matteo. Più asili, chiedo. Meno caccia, più asili. Che è venerdì, tra l'altro. Piosilia. Comunque, Drago, volendo, anche se alla fine siamo costretti a comprare i cacciabombardieri della Lockheed, potremmo riconvertirli in asili. Ma sì, scusa, il problema è che Monti deve sottostare a un accordo preso dal governo precedente con gli USA. No? USA. Ok, vi compro tutti questi. No, cioè, anzi, vabbè. Tu mi compri tutti questi. Sì, vabbè, aerei. Insomma, è per la questione della difesa, ha no? Capito, però deve, ormai è obbligato a comprarsi questi aerei. Sì, deve comprarsi un sacco di aerei. Però sono proteste adesso, no? Quindi alla fine, pacifisti o non pacifisti? Pacifisti. Vecchio veronesi o non vecchio veronesi? Sti maledetti aerei arrivano qua in Italia e ce li dobbiamo tenere. E quindi riconversione. Ma che cosa riconverti? Sono aerei da guerra, cioè non lo so. Trasformazione d'uso, diventano asili. Gli aerei. Cioè, un Lockheed. Fai un asilo nell'abitacolo di un caccia. Meno caccia, più asili. Letteralmente, solo per l'equipaggiamento dei bambini stimo un costo di 30.000 euro a famiglia. Bisogna vestirli proprio come. E devo mettere i pantaloni quelli anticollasso, quelle robe da forza G, da velocità Mach 3, capito? Hai capito? Drago! Oh! Meno caccia, più asili! Presto! Bambino Drago! Tenente Drago! Entri nell'asilo, nell'asilacolo! Presto! Sì, suor K! Non sono una suora! Siamo all'asilo! Se io sono il bambino, lei deve essere la suora! Ma io non va... Baia! Ma io non voglio essere una suora! Allora niente. Niente. Ma come? Niente. Ma non ce la faccio. Cioè, io non faccio la suora, scusa, è più forte di me. È solo per le dicerie che portano sfiga, dai. Ma che dicerie? È tutto vero. Io quando vedo Suor Dentona mi tocco sempre. Quindi lei penserà che tocco sei maleducato, sempre con le mani sulle palle. Ma no, ferro, pensi quello che vuole, non mi interessa, io mi devo tutelare, tocco ferro. E quindi dai, si era partiti bene con i caccia, il vecchio veronese, siamo qui a parlare delle suore che portano sfiga, tocca. Drago, benvenuto all'asilo. Senti, arriva. Senti, arriva. È qui che arriva. Eccolo. Venerdì. Sta salendo il venerdì. No, è già venerdì. Vabbè, però da stamattina. La sera del venerdì. La sera del venerdì. Finalmente. Di promesse. Promesse. Sul divano. Con il mio cane. Vabbè, tutto lì. Tutto sempre così. Sì, così. Il venerdì del villaggio. Va bene. Venerdì. Allora, chi è che dobbiamo ringraziare e salutare? Tutti quelli del villaggio turistico. Allora, Laura Faggin e Miriam Lucchetti. Grazie. New Entry. Ci rivediamo lunedì. Carmelo Lauricella. Grazie. Alberto Caserini. Salvatore Iorio. Chi? Guido Bertolotti. Ciao. Chiara Mignemi. Ma quanti sono? Siamo in tanti. Basta. Capo Drago. Ecco. Tito. Venerdì. Venerdì. Ah.